tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario anticlericale. Iniziamo dal Fatto Quotidiano del 14 novembre 2021, pagina 18. C'è una bella paginata di immagini satiriche anticlericali. Gag umoristica e senza glutine, cioè è una satira sull'Eucarestia. Poi c'è la gag spiritosa, Velázquez, ritratto di Papa Innocenzo X, con questo ritratto viene tramutato in un mostro, il cardinale diventa un mostro. Poi c'è la gag comica, signora, se suo marito vuole giocare a questo 69 perché non ci gioca, che male c'è in un piccolo gioco? Il prete risponde alla fedele in presenza del marito su queste sue attività erotiche. Dal Quotidiano Nazionale dell'11 novembre, sempre meno preti, 1 su 12 straniero, prosegue inarrestabile in Italia il calo delle vocazioni. Da 38.000 nel 1990, numero dei preti, a solo 31.000. E aumentano invece i preti che provengono da paesi esteri. La Chiesa cerca in ogni modo di tappare i buchi. E crollo del numero delle suore, per esempio a Baranzate in provincia di Milano, le ultime due suore lasciano la città appunto di Baranzate. C'è un servizio su 7 giorni del 5 novembre. Ricordiamo il mio sito, cioè il sito del circolo giordanobrunomi.wordpress.com, con le recensioni dei libri anticlericali. Anche il sito pierinomarazzani.it ha molte recensioni di libri e anticlericali. Dalla Repubblica del 10 novembre, oggi firmerò per far morire mia figlia Semi e lei sarà libera. Sarò nominato amministratore di sostegno e potrò dare il mio consenso per interrompere la nutrizione. Un ampio articolo a tutta pagina sulle tematiche di fine vita. Sullo stesso caso, Samantha D'Incà, il giudice, il padre può interrompere i trattamenti vitali. Il Manifesto dell'11 novembre 2021 e anche altri articoli su questo interessante argomento. Ancona, la battaglia di Mario. Corriere della Sera del 13 novembre. Chiedo di morire. Il comitato etico non decide mai. L'attesa. Che mi dicano se posso accedere al farmaco letale oppure no. Ma se dicono di no, devono spiegarmi perché. È sempre un ampio articolo sulle tematiche di fine vita. Vittorie anticlericali nelle mie ricerche su internet, per esempio la diocesi di La Rochelle in Francia, nel 1950 c'erano 345 preti, adesso sono rimasti 89. Sempre in Francia, diocesi di Nîmes, nel 1950 c'erano 455 preti, sono rimasti adesso in 115. Ricordiamo questo libro scritto da Luca Cavalli Sforza e dal figlio, in cui si ribadisce il no al creazionismo, no al creazionismo, sì all'evoluzionismo. Noi deriviamo da un antenato comune a uomo e scimpanzé e non vi è stata nessuna creazione. 7 milioni di anni fa circa si è verificata questa distinzione fra noi e gli altri primati. Circa 300.000 anni fa arriva l'Homo sapiens arcaico dall'Africa, da cui deriva l'Homo sapiens sapiens moderno. L'Homo sapiens di Neanderthalensis si estingue però circa 28.000 anni fa, no? E alla fine rimaniamo solo noi. Il giorno... Il Quotidiano Nazionale del 12 novembre fa un bel articolo sul rettile di 235 milioni di anni fa nel mare calmo della Valsassina. mandibola di 20 centimetri estratta dalla roccia dal paleontologo Tintori e dall'associazione Triassica. Questo per far vedere come tutti i giorni le ricerche paleontologiche, geologiche, eccetera, dimostrano come la vita era presente da milioni e milioni di anni fa, e milioni e milioni di anni fa sono apparse delle specie che poi si sono estinte. E quindi a che pro creare tutte queste specie strane, mostruose, per poi farle estinguere? I creazionisti chiaramente non possono dare una spiegazione razionale, invece noi evoluzionisti lo spieghiamo, perché il caso e la necessità ha determinato l'estinzione di queste specie che si sono create per la selezione naturale. I preti pedofili in Pennsylvania, da penlive.com, 25 ottobre. E questo prete maniaco arrestato perché insomma era un pedofilo e dava fastidio ai bambini. E abbiamo anche negli Stati Uniti, 31 ottobre 2021, su upnews.com, questo prete possedeva centinaia di foto pedopornografiche da Providence e quindi è stato arrestato, poi rilasciato su cauzione. Abbiamo poi un prete coinvolto nell'assassinio di Chiavari, di cui ne parlano in questi giorni tutti i giornali. E tre arresti, c'è anche un prete. E poi il caso appunto di questi pedopornografi, tra cui appunto è coinvolto questo prete di Benevento. Abbiamo anche il Fatto Quotidiano, inchiesta a Torino, pedopornografia, arrestato direttore della Caritas di Benevento. Quotidiano Nazionale del 13 novembre, pagina appunto 22, migliaia di foto raccapriccianti con minori. A Benevento arrestato anche un prete maniaco. Legge Zan, Quotidiano Nazionale dell'11 novembre. E il sindaco gay convinse il parroco, salta la messa per il no alla legge Zan. Treviso, Don Antonio voleva festeggiare con i fedeli la bocciatura al Senato, ma il primo cittadino l'ha diffidato e alla fine il prete ha accettato di cancellare la funzione religiosa. Il sindaco esalta il valore del confronto. Telefonata diretta, Don Antonio, la tua scelta è grave perché alimenti inutili tensioni nel paese. E quindi alla fine lui ha capito la stupidata che stava facendo e ha rinunciato a intromettersi negli affari interni del Parlamento. 12 novembre, ipocrisia di Papa Francesco. Investe soldi a Londra, paese di protestanti, invece di investire i soldi del Vaticano in dove c'è più bisogno di posti di lavoro, che non certo a Londra, ma per esempio in Calabria, in Sicilia, in Puglia, in Sardegna. E invece il Vaticano continua a investire soldi secondo il criterio del massimo profitto. Dal mio dizionario di terminologia anticlericale, illuminismo fu un movimento politico filosofico che ebbe una base comune, la fede nella validità della ragione come mezzo per risolvere tutti i problemi. Illusionista. Leggendo certi passi biblici si ha l'impressione che Dio sia una specie di illusionista che produce immagini contraffatte, miracoli contraffatti. Imbonitura apologetica. È praticata per esempio da alcuni ponderosi libri e enciclopedie curate da frati teologi che manipolano e falsificano la realtà storico-sociale. Imperialismo cattolico. Turpe tentativo clericale volto alla dominazione del mondo abusando della credulità popolare. E concludiamo con i detti anticlericali della settimana da Karl Marx. La religione è il sospiro della creatura oppressa. Il cuore di un mondo spietato, come lo è lo spirito di una condizione priva di spirito. Essa è l'oppio del popolo. Poi Lenin. Il nostro programma è basato sul concetto scientifico del materialismo storico. Esso include anche l'analisi delle radici storiche ed economiche dell'oscurantismo religioso. chi era Gesù. Gesù era in realtà solo un rabbino fanatico, maestro in trucchi vari, che voleva liberare il suo popolo dal giogo imperialista romano. La preghiera non serve a nulla. Chi è morto 2000 anni fa non può fare niente per noi. La virtù della speranza è solo una pia illusione propinata dai preti. Abbandonate quindi la fasulla strada della fede e passate all'ateismo. Aderite all'ateismo agnosticismo razionalista, come diceva una scritta su un tempio crematorio piemontese, post mortem nil, dopo la morte non c'è niente. Bene, arrivederci alla prossima puntata, saluti a tutti.